Si, pura copo e nulla, o barretto e cellula. Si, Felix, congiunzion. Si, pura copo e nulla, o barretto e cellula. Si, Felix, congiunzion. Amore sussistente, a ridere mi dio. Paridere me Dio. A voi so poco tempo, a voi so poco tempo. Fidulus indefabilis, membris lacertis labis. Fidulus indefabilis, membris lacertis labis. Si! Una copo e lola, morabeto e cellola. Si! Felix, congiunzion!